Roberto di Varese, cambia, metti sulla zanzara, vai là, veloce anche, vai sulla zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì, non ascoltarmi, te lo ordino, è un mio diritto, ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te, ho il pieno diritto, vai sulla zanzara, vai! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sposarmi in un altro posto, ragazzi. Voi parlate sempre di questi matrimoni gay, voi due, ma siete una vecchia coppia, due gay che si continuano a insultare uno con l'altro. Quello sbaglio della mente umana che è la teoria del gender e che fa tanta confusione e la famiglia è sotto attacco. Papa Francesco non era progressista, non era il Papa nuovo a favore anche dei gay, eccetera, eccetera? Oh, good night everybody, caro Parenzo! Buonasera. Non si dice in italiano. Allora, domani torna l'ora legale. Chi se ne fotte? Panico tra i socialisti, diceva Cuore. Beppe Grillo è il protagonista del giorno. Dopo settimane di silenzio, bravo, e sostanzialmente di marginalità totale, bravo, nello scenario politico, bravo, finalmente un ragionamento serio. Finalmente una roba seria. Finalmente una roba molto seria. No. Davvero un ragionamento ai massimi livelli. Ai massimi livelli. Un po' ironico. Non capivo. Renzi è come il pilota della Germanwings. Ragazzi, non sto scherzando. È da questa mattina che c'è casino su questa frase che Grillo ha scritto sul suo blog. Ci sono analogie tra Andrea Lubitz, il copilota dell'Airbus A320 della Germanwings, che si è schiantato sulle Alpi francesi, e Matteo Renzi, che sta schiantando l'Italia. Si tratta di uomini soli al comando. Adesso si possono fare tutte le metafore politiche. I comici hanno la possibilità delle cose più ardite. Non bisogna dimenticare però che il signor Beppe Grillo è a capo di un movimento politico. Bravo. Il quale sostiene oggi, in sostanza, che cosa? Sostiene che Renzi è come il pilota della Germanwings. C'è uno sciacallaggio evidente sulla pelle di 150 vittime. Fermati, Grillo! Puoi dire tranquillamente che hai sbagliato. Chiedi scusa alle vittime della Germanwings. Hai utilizzato un paragone tra Renzi e il pilota che, diciamo la verità, un po' fa schifo, perché si può dire come Schettino dopo anni di distanza, no? Uno è come Schettino perché è diventato un modo di dire, cioè hai portato una barca, una squadra al naufragio, e già, insomma, non è particolarmente elegante, però noi dell'eleganza ce ne fottiamo. Ma non puoi dire, non puoi affermare con i corpi ancora caldi, con i corpi ancora da prendere, con i corpi in mille pezzi, non si prenderanno mai, che Renzi è come il pilota della Germanwings. E siccome ci sono persone che non possono contraddire il loro capo, dicono pure che c'ha ragione Di Battista. Sul blog di Grillo è apparso il fotomontaggio di Renzi al posto del copilota tedesco che ha fatto schiantare l'aereo, dicendo ci porterà l'Italia, farà fare la fine dell'aereo all'Italia. Lei condivide? Beppe Grillo è sempre stato, ha sempre utilizzato anche l'arma della provocazione per riuscire un po' ad aprire gli occhi a un paese un po' ovattato. E, è l'unico modo, perché tante persone non si rendono conto che le scelte politiche uccidono persone nella Terra dei Fuochi, uccidono le persone qui nel Bresciano. Le scelte politiche uccidono. Beh sì, certo, alcune scelte politiche certamente possono uccidere, però non vorrei ricordare un episodio, poi magari lo ricorderemo, di uccisioni e di morti. Le scelte politiche uccidono. Ricordalo. No, ma le scelte politiche uccidono, d'accordo, le scelte politiche, ma no, i corpi sono ancora lì in mille pezzi e tu metti Renzi dentro la cabina di pilotaggio, amico mio. Ma se io dico che Grillo è politicamente idiota. Politicamente un idiota. Ma perché non dici direttamente che è un idiota, se lo vuoi dire? No, è inutile che ti tieni. No, quello poi mi querela. Ma che ti querela, che io hai paura della quella di Grillo, dai. Parlamentare, non ho l'immunità come i suoi. Vabbè, bravi, fammi sentire ancora Di Battista, dai. Fammi sentire Di Battista, che tanto va là a slinguare. Se fosse una provocazione su una tragedia che ha coinvolto 150 persone, perché un po' mancanza parliamo, di... Perché non parliamo mai della Terra dei Fuochi, di quei morti? Perché voi uscite fuori soltanto quando ci sono queste provocazioni? Evidentemente servono a farvi uscire fuori, perché altrimenti non parliamo dei temi veramente che uccidono i cittadini italiani. Quindi non è fuori luogo, secondo lei? Beppe Grillo è Beppe Grillo, come quando disse che i socialisti rubavano. È fuori luogo e aveva ragione. Con noi Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? C'è ancora Parenzo lì? Sì, c'è ancora Parenzo. Lo vuoi cacciare? Vuole mandare in Siria come Greta e Vanessa? Vuole mandarmi lì, Gasparri? Non sarebbe una cattiva idea, devo dire la verità. Ti sei auto inviato in Siria. Sì. È troppo tranquillo il posto per Parenzo. Avrà un posto. Lo mandiamo da Boko Haram. Ma come da Boko Haram? In Nigeria. A Boko Haram gli tagliano la gola dopo 2 secondi. Senti, ce ne faremo una ragione. Scusa Maurizio, ma ti sei fatto che pensi di questa cosa di Grillo? Adesso tu sei critico con Renzi. Qual è la cosa? Ha paragonato Renzi al pilota della German Wings. Ma un'esagerazione, insomma, dai, quella è una tragedia seria, ci sono morti, ci sono famiglie devastate da uno che si è suicidato in questa maniera demenziale. Non trovo bello, io di Renzi ho una profonda disistima. Appunto. Però credo che ci sono persone che vagano sulle montagne della Francia cercando brandelli dei parenti. Sì. Insomma, non mi pare che sia. Ma Grillo da questo punto di vista è un po' un irresponsabile, mischia tragedie vere con Renzi, che è un personaggio più da farsa che da tragedia. Vabbè, adesso lasciamo perdere Renzi. È un politico come te. Io voglio dire una cosa, la voglio dire tutta. Se ci sono dei morti, cioè Renzi non ha provocato morti fino adesso, no? Mi sembra che Grillo, no, cos'è Maurizio? Sto telefono. Qualche morto l'abbia provocato, questo voglio dire. Cioè, Grillo, se proprio uno Grillo, va. Vabbè, Grillo è muto, come lei sa, lei mi sta provocando, però ricordiamo che Grillo è stato condannato per un omicidio colposo e molti anni fa andò su una strada interrotta di montagna, ghiacciata, la macchina precipitò. Sì. E una scarpata e un'intera famiglia, lui si salvò, un'intera famiglia che viaggiava con lui. Per cui se uno va a vedere chi ha provocato morti, non è una cosa simpatica. Credo che Grillo farebbe bene, critichi Renzi dicendo: io quando mi ha offeso Renzi, gli ho risposto con un tweet: Renzi è un imbecille, insomma, è andato in tutti i telegiornali. Ma sì, ma basta rispondere così, e no? Quindi, imbecille è una parola che si usa pure alle scuole elementari. Sì, non bisogna per forza andare a pescare i morti sull'aereo ancora caldi. Oggi l'avrete vista anche voi queste immagini di questa montagna, questa cosa assurda. Di uno che insomma depresso, che pilota un aereo, si suicida. Ma sui tedeschi si può dire qualcosa sui tedeschi? Guarda, condivido molto l'impostazione di Sallusti e di Belpietro, pure, perché oggi hanno fatto degli editoriali molto severi, perché hanno ricordato come la stampa tedesca, quindi è un discorso tra giornalisti, non è che ce la si può prendere col governo tedesco. I giornali, quando ci fu la vicenda della nostra nave da crociera, quell'assurda condotta. Vabbè, un giornale del Spiegel, dai, su. Il Spiegel, però, è importante, è quello che ha messo in copertina la Merkel con i generali nazisti sullo sfondo del Partenone, dicendo: in Europa ci considerano un po' prepotenti, sostanzialmente. E devo dire che quelli che irridevano, quel giornale che irrideva l'Italia, che c'era Schettino, certamente personaggio di cui non è che ci possiamo vantare, ce ne dobbiamo vergognare. Ora, uno che fa una cosa del genere, scolaresche in gita, famiglie, una roba folle, voglio dire. No, ma voglio dire, ma la Germania ha qualcosa da rimproverarsi secondo te? Beh, il mito di questa superiorità presunta viene scalfito. Quei giornali che dicevano che noi siamo il popolo di Schettino dovrebbero chiedere scusa all'Italia. Parlo dei giornali, non è che la Merkel è... Ma i giornali fanno i giornali. No, ma voglio dire, tu dici c'è il mito della superiorità. Se uno dovesse andare da Sallusti, ma allora scusami, ma Sallusti ha mai chiesto scusa? Ma da giornale a giornale. Ma Sallusti ha scritto sulla, ha fatto un titolo, la Chiavona, come si dice lì? È stata la culona, fece un titolo famosissimo. Qualcuno ha scritto vergogna tedesca. Libero ha scritto vergogna tedesca. Ora voglio dire, ho letto gli editoriali. Ma vergogna tedesca, vergogna tedesca. Secondo i tedeschi si devono vergognare un po' di quello che è successo. I tedeschi. Io credo che il giornalista che ci ha offeso come italiani per Schettino si debba vergognare e debba dire: da noi c'è qualcosa che è ancora più grave del pessimo, ignobile comportamento di Schettino. Quello che ha scritto quell'articolo, non so chi sia, sarà un giornalista di Der Spiegel, è un po' come quando facevano le copertine negli anni 70, con gli spaghetti e la pistola. Però adesso hanno fatto anche la copertina, come dire, autocritica nei confronti della cancelliera, mettendogli quella specie di fotomontaggio. Vabbè, adesso torniamo dopo il traffico, perché ormai, caro Maurizio, qui siamo ormai in un mondo pieno di gay. Non c'è dubbio, sta cambiando tutto. È una canzone. Sta cambiando tutto. Ci sarà l'obbligo. Sta cambiando l'obbligo. Tutto. Unioni gay. È obbligatorio per tutti. Unioni già gay. Vedo Parenzo sul camion. Che sculetta. Cambia tutto, cari amici, unioni gay, forse anche adozioni, la pillola dei 5 giorni dopo. Sai che io e Gasparri abbiamo due cose. La marijuana in legalizzata, ci sono 100 deputati che depositano un progetto di legge per legalizzare la marijuana, cose avanti incredibili. Tutta. Avanti tutta. Io e Gasparri abbiamo due cose in comune. Che cosa? Entrambi siamo pagati abbastanza bene, lui probabilmente un po' di più, e entrambi diciamo cazzate, ma lui fa il deputato, anzi il senatore. Beh, questo lo dice radio. Vabbè, ecco, ho capito, ma che c'entra? Perché che ha detto fino io adesso? Io dico cose serie, lei forse le dice di cazzate. Riferito che a lei Pride. Scherzando in riferimento al mio supposto sculettamento sul carro del gay Pride. Ma come si trova in questo nuovo mondo, Gasparri, in cui ormai mi trovo che io sostengo le posizioni di sempre. Ho detto l'altro giorno a Giovanardi, forse prima o poi ci metteranno, a noi due dentro una gabbia, dicono: guardate Gasparri e Giovanardi che vogliono che si sposino uomini e donne, che dicono che la droga fa male, e tutto un mondo di gente schizzata, drogata, con bambini fatti in utero in affitto, ci dirà: guardate quelli, come se fossimo noi quelli anormali. Abbiamo detto a Carlo: viene, ma lo so, in una gabbia si pagherà anche il biglietto, 5 euro, per vedere Gasparri e Giovanardi che dicono che la vita nasce da uomo e donna, che la droga fa male. E fuori tutti a sculettare, con i camion, con le piume di struzzo, tutte le robe. Beh, forse ci saremo anche noi. La cocaina. E tutti che diranno: è il mondo normale. Guardi, oggi del resto, visto che anche, così dico una cosa un po' pepata, il segretario della Conferenza Episcopale Italiana detto che appunto tra poco bisognerà scusarsi per essere madre, padre e figli. Io ho detto però, che prendo atto delle dichiarazioni che condivido, quando Berlusconi però era al governo, e l'altro giorno c'è stata qualche critica a Berlusconi da parte di ambienti cattolici, sulle donne, però queste leggi non si facevano, dovrebbero fare una riflessione anche loro. Forse Berlusconi era un baluardo per la famiglia. Allora, Berlusconi avrà commesso qualche peccato individuale, però da politico, da leader di governo, quando è stato in maggioranza, questi argomenti non avevano la possibilità. Cioè, Berlusconi era un baluardo per la famiglia, Ma come c'è la Pascale, la sua fidanzata, che è a favore delle nozze gay, di qualsiasi cosa? Una constatazione di fatto: quando c'era il governo di centrodestra, queste leggi, e c'era una maggioranza di centrodestra, non avevano possibilità di essere approvate. Poi che Berlusconi sul piano individuale ognuno può fare i suoi errori, quelli che possono essere anche dei peccati. Ma ha visto l'altro giorno quella scena favolosa dalla trasmissione della Bignardi, che ha chiuso, di tutta quella famiglia gay pazzesca? Bignardi, io faccio parte del 98% di italiani che non hanno mai visto la Bignardi, difatti la chiudono, ho saputo, perché sta sotto il 3%, quindi come pretende che io abbia visto la famiglia gay dalla Bignardi? La Bignardi non la vede nessuno. Io faccio parte di quella maggioranza pressoché totalitaria degli italiani che ha determinato la chiusura guardava il programma. Io la guardavo. E ne va pure orgoglioso. Io la guardavo. Scusi, ma uno è libero, che c'è l'obbligo di essere gay, l'obbligo di guardare la Bignardi. Io sono liberato. Non sono le due. A me due metteranno allo zocco con Giovanardi e diranno: quelli non guardavano la Bignardi. Però lì ci sarà una gabbia piena di gente, perché non la guardava nessuno. Lei è contento che abbia chiuso in realtà, mi dica la verità. Sì. Io non sono contento di nulla. Però l'utero in affitto, io dico, ma che male c'è al fatto che... Ma perché è una vergogna? Ma scusi, ma allora, Marino... Perché possono fare 100, possono fare 100 Parenzo, lei dice? Marino è un cialtrone. No, quelli lo possono già fare con la clonazione, uno prende le cellule di Parenzo, la scienza, ti ricorda che fecero la pecora Dolly, potrebbero fare anche 100 Parenzo. Ragione è di non fare la clonazione. Ma non è la clonazione, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Guardi, l'altro giorno Marino ha detto che non bisogna mettere le pubblicità offensive per la donna. Sono d'accordo. Ma come d'accordo? Non può essere. Ma aspetti, mi faccia finire la frase. Dopodiché Marino, che celebra, vuole ratificare matrimoni gay, è favorevole all'utero in affitto, è un buffone, non vuole le foto sconvenienti delle donne, ma quelle stesse donne possono essere costrette a pagamento. Ma che costrette? Nessuno è costretto. Ma nessuno quelle è costretto a pagamento. Vendono il proprio corpo per consentire. Vendono il corpo per guadagnare. Stanno meglio economicamente. Questo uso del corpo. Non mi dica che quel senatore del PD che l'ha fatto, secondo lei, è un nazista. Io ritengo che sia un comportamento vergognoso. Cioè, lei lo caccerebbe dal Parlamento, questo signore. Io questo lo ritengo un comportamento contro le leggi dello Stato, contro principi di contro la natura, pur contro la natura pure. Una roba vergognosa. È molto peggio che sfruttare la prostituzione o fare altre cose. Come peggio perché che sfruttare la prostituzione? Del corpo della donna è un comportamento assimilabile a chi mette su casa d'appuntamento. Ma come? Cioè, lo giudice peggio di chi sfrutta la prostituzione? Ma no. Usare il corpo della donna per pagarla e mettere al mondo per conto terzi figli, scusi, è molto peggio che pagare una donna per un rapporto mercantile, cosa vergognosa e da condannare. Fargli mettere a pagamento al mondo un figlio per conto terzi non ha tutti i torti, è anche peggio. Mi dispiace, peggio, non vorrei danneggiarlo. Cioè, d'accordo, Parenzo è d'accordo con te, Maurizio. Parenzo è d'accordo con te. Seriamente, non vorrei danneggiare Gasparri. No, lo stai danneggiando. Ma questa volta ha profondamente ragione. La marijuana legalizzata, 100 deputati, sono tutti pazzi? Sono tutti fumatori? Sono tutti drogati? Sono persone che sbagliano. Alcuni, io prendo sempre in giro Giachetti, che si vantava di avere fatto uso di marijuana. Vabbè, ogni tanto si fa una canna. Io mi sono fatto la canna ogni tanto. Io ritengo che le droghe facciano tutte male. Ma no, ma questi qua sono pazzi, sono pazzi questi qua. Sono persone che fanno una scelta, pazzi mi pare un termine. Drogati, hanno fatto uso di droga, sono... No, non lo so. Qualcuno sicuramente userà anche sostanze. Lei sa che non accettano tutti quel controllo a cui ci dovremmo sottoporre per verificare usi. Povero Martino, del suo partito che ha fatto uso di sostanze. No, quello ha firmato. Martino ha firmato pure lui. Allora, no, Martino non fa uso di sostanze. Martino è una persona che sostiene all'estremo gli orientamenti liberali. Lui è per liberalizzare l'immigrazione. Ti devo salutare. Liberalizzare la ciao droga. Maurizio, ciao, ciao, ciao. Però sbaglia, ciao, ciao. Ciao. Ci sarà l'obbligo, sì, gay pride. Gay pride obbligatorio per tutti. Già vedo Parenzo sul camion, che sculetta. Ci sarà l'obbligo, sì, gay pride. Gay pride obbligatorio per tutti. Già vedo Parenzo sul camion, che sculetta. Questo non credo. Devo dire, caro Parenzo, che la mia teoria secondo la quale chi corre, chi fa le maratone ha qualcosa di più equilibrato, è una stupidaggine. Diciamo non può fare del male, ecco, viene clamorosamente smentita da queste foto del signor Lubitz, il copilota che si è schiantato sulla montagna uccidendo 150 persone, che corre, che fa una maratona. Sono rimasto particolarmente colpito da queste foto di questo signore, di questo suicida barra assassino, il quale corre tranquillamente una gara, non so come se te. Di maratona, di mezza esattamente maratona, come te. Esattamente come me. Cioè anche tu potresti, ma questo non avevamo dubbi, potresti essere un potenziale assassino. Poi sta cosa della depressione che dicono, no? La depressione. Adesso, voglio capire, non è che tutte le persone depresse o tutte le persone lasciate da una fidanzata, no? No, no. Prendono un aereo e fanno una strage. Adesso, no, francamente, tutto, questa qua tutto. Mi sembra un... Questo non credo. Ecco, appunto. Ma adesso non è che Razzi, lo psichiatra Razzi. ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Fanzaga, Fanzaga, il nostro amico Don Livio Fanzaga di Radio Maria dice che Satana offre il matrimonio gay. Dietro il matrimonio gay c'è Satana. Ragazzi, questa è la radio, una radio molto ascoltata dai cattolici italiani. Dietro il matrimonio gay c'è Satana. Satana! Tra le varie cose che Satana ci offre tramite il modernismo c'è anche il matrimonio gay. Questa è, mi pare che sia una cosa evidente, perché se Dio disse maschio e femmina li creò, immagine Dio li creò, perciò l'uomo lascia suo padre e sua madre, si unisce a sua moglie, si una sola carne, evidentemente il matrimonio gay è tutto il contrario di quello che ha stabilito Dio creatore. Adesso ragazzi, io la dico forte, però di fronte a Don Livio Fanzaga che dice che Satana offre il matrimonio, cioè che dietro il matrimonio omosessuale c'è Satana, io francamente preferisco uno che sculetta con le piume al Gay Pride. Beh, cioè, se devo scegliere però, tra Don Livio Fanzaga e uno sculettatore col culo di fuori e pure col pisello di fuori, con le piume eccetera eccetera, che va su un carro a Gay Pride, preferisco quello. Almeno non mi dice che c'è Satana dietro il matrimonio gay. Almeno non me lo dice. E poi siamo noi che parliamo di cose gay, non siamo noi, è il materiale che ci offre l'attualità, è il materiale che ci offrono le persone, è il materiale che ci offrono i protagonisti. È stata votata una legge in Parlamento, per esempio i tuoi amici di Forza Nuova hanno, no amici, nessuno, i tuoi amici di Forza Nuova, no, che no, sono amici, chiaramente neofascisti, vogliono mandare a rogo i libri che sono inneggianti all'omosessualità, ecco, a Milano. Ecco, tu sai che a rogo, sai, sì, che i nazisti, no? Nazisti, cioè, no, ma non dirlo, certo, in modo così, no, superficiale. Perché, ma ti pare i nazisti, secondo te io posso essere d'accordo con questa cosa? No, certo, però allora, con aria seccata, i nazisti mandavano a rogo i libri, certo, i facevano signori, i roghi, di no? Forza Nuova, capitanati dal bravo Fiore, il bravo in senso manzoniano, ovviamente, Fiore. Vogliono bruciare i libri in piazza, ecco, benissimo, i roghi, no, nel caminetto, come i nazisti, peraltro in uno stato, certo, in uno stato americano che si chiama Indiana, nell'Indiana sono nazisti dell'Indiana. No, ma una cosa incredibile, è stata praticamente varata una legge, un provvedimento per cui i gay e le lesbiche possono essere cacciate dai ristoranti, cioè, dai detto, bar, l'Indiana è una, possono è negare nazista, i propri nazista, servizi a gay e lesbiche. Poi d'altra parte io non riesco a capire come si fa a distinguere uno da... tu entri e dici sono gay o sono una lesbica, allora, come si farà concretamente? Bah. Comunque vogliamo ricordare Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, il quale recentemente proprio qui alla Zanzara ha detto che se lui ha un figlio gay, se si presenta col fidanzato lo caccia via da casa. Tuo figlio Masco si porta a casa un fidanzato. Il signor Roberto Fiore, no, segretario non di Forza Nuova. Entra, ovviamente non entra. Ma come non entra con fidanzato? Certo che non entra con fidanzato un figlio Masco. Allora ci va chiedendo se fa accettare un figlio con un fidanzato. Certo, fai entrare a casa tuo figlio che si è innamorato di un maschio. Si è innamorato. Esattamente, cioè assolutamente no. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Il giovane pilota che ha provocato la strage aveva stracciato il certificato medico e nascondeva le ricadute della malattia. L'ultima visita in ospedale il 10 marzo. I dettagli sempre più sconcertanti sul comportamento del copilota chiamano in causa le responsabilità della compagnia aerea e cresce la rabbia dei parenti delle vittime. Dopo la tragedia arriva la raccomandazione dell'Agenzia Europea per la Sicurezza, sempre in due nella cabina dell'aereo, dubbi e polemiche sull'efficacia del test sui piloti. Il Consiglio dei Ministri approva la riforma della RAI che prevede nuovi criteri di nomina dei vertici del servizio pubblico, riorganizzato il Ministero della Giustizia. Umorismo macabro di Grillo sul blog, Renzi come Lubitz farà schiantare l'Italia, ma i militanti 5 Stelle si ribellano, è una vergogna, un oltraggio ai morti. Industriali e commercianti vedono la ripresa. Occupazione, in due mesi 150.000 contratti in più. Domani la FIOM in piazza contro le nuove norme sul lavoro. È attesa in Cassazione per la sentenza sull'omicidio di Meredith Kercher. Non sarà in aula Raffaele Sollecito, partito per la Puglia dopo l'arringa della difesa. Il verdetto in serata. Eppure sulla vicenda di Grillo, Parenzo, da parte di persone che conosco del Movimento 5 Stelle, mi arrivano sulla vicenda di Grillo, che oggi ripetiamo per l'ennesima volta, scritto sul suo blog che Renzi è come il pilota della Germanwings che si è schiantato e lui porta l'Italia allo schianto, sì, che è un paragone assurdo, diciamo la verità, per quanto uno possa essere, no, un temerario, per quanto uno possa essere un provocatore. Ma quale provocatore? È una cosa che non ha senso questa roba qui. Eppure c'è gente che scrive: ma no, ma Grillo ha ragione, amici miei che conosco del Movimento 5 Stelle, perché Renzi con le sue politiche, con quello che ha fatto, ha ammazzato un sacco di gente. Se ti piace ha così portato al suicidio un sacco di gente. Dobbiamo ringraziarti. Dai, su, ma dobbiamo ancora una volta ringraziarti. Ma non dire stronzate, dai. Per questo spettacolo al quale assistiamo. Tu dica che hai vomitato, quando hai letto quella cosa là hai vomitato. Dillo, dillo l'ho chiaramente scritto, che hai vomitato. Ma come dillo, l'ho scritto su Twitter, scusa. Che ne so, mica seguo il tuo Twitter ogni secondo. Il tuo fai male. Hai molto tra l'altro male. È il giorno in caro cui, caro Beppe Grillo, non avevo bisogno di prove ulteriori circa la tua demenza politica. Sì? Il fotomontaggio sulla tragedia aerea è roba da vomito. Cordialità. Poi intanto ha confessato Odeven, ve lo siete scordato Odeven, no, eh? L'ex vice capo di gabinetto di Veltroni, che ha reso dichiarazioni spontanee, ha detto che Buzzi mi pagava e avevo un ruolo di facilitatore. Io ricordo che era vice, ex capo di gabinetto di Veltroni o vice capo, quello che è. Ma io non ho detto che è colpa di Veltroni, io ho detto che era un uomo molto legato alla sinistra. È come alla se sinistra. Domani ti arrestassero, a te, ad esempio, è una cosa incredibile, guarda. No, domani magari ti arrestano per denaro all'estero. Vabbè, quando si tratta di scandali legati alla sinistra, no! Non bisogna nemmeno citare. Ma non bisogna citare. Poi già hai fatto bene a dirlo, cosa ma è come se arrestassero dai te domani. Ma io non ho detto questo. Domani ti arrestano con l'accusa allora di con l'accusa di perché hai rubato, però dei soldi in Svizzera. Sì. E dici: trovati 40 miliardi di cruciani d'oro in Svizzera. Vengono da me e dicono: tu Parenzo hai lavorato con Cruciani da 4 anni. Dico: ma che cazzo ne sapevo? Mi sembrava un tirchio pazzesco. Dice: no, tu dovevi sapere. Ma come sapere? Ero lì con lui, io stavo a Roma. Hai detto la cazzata delle 19:27, no, possiamo ma andare è così, avanti. È così. Possiamo andare avanti? Andiamo avanti. È così. Ma Parenzo lo pagate voi? Oh, se risentiamo Taormina, il quale pensava di avere. Anzi, no, era molto felice qualche giorno fa quando ha avuto un nipotino. Questo nipotino dice: è maschio, è veramente maschio. Avevo timore che fosse omosessuale. Taormina, ma come fai a sapere se è frocio a 2 giorni, a 3 giorni dalla nascita, quando è nato? Avvocato! Ho un figlio che ha 16 mesi, ma non mi verrebbe mai da scrivere su veramente maschio. A me viene, allora a me beh, viene. È un po' strano, a me non viene. Che vuol fare? No, caro, a me non viene. Maestro. A me non a viene non da viene, scrivere. Viene. Mio figlio è veramente maschio. È veramente maschio, perché io sono soddisfatto che sia veramente maschio. Chi l'ha detto? Ma che ne sai che è veramente maschio poi? Che ne sai che è veramente maschio? Giusto, questo è vero. All'apparenza questa è la situazione, poi vedremo nel futuro. Poi si corregge pure perché dice: beh, no, perché c'è scritto: avevo paura di qualche accidente omo, hai scritto. Esatto. No, esatto. Non è vero che avevo ma è recidivo di, allora di ma è recidivo accidenti. Senti, guarda, non fa, per cortesia non mi fare interloquire con questo signore. Guarda, non mi fare interloquire con questo signore, perché poi divento volgare e non voglio essere volgare. Allora, ci sono molti juventini, sicuramente molti tra quelli che ci stanno ascoltando, perché la Juventus è la squadra più tifata d'Italia, che sono incazzati come belve, non per Moggi i 20 centimetri del suo pisello o altre cose di questo tipo, sono incazzati per l'infortunio di un centrocampista della nazionale che si chiama Marchisio. Perché, ti chiederai Parenzo, sono incazzati perché un giocatore molto forte dovrà stare fuori 6-7 mesi, ma questo giocatore non si è infortunato all'interno, no, durante un allenamento della Juventus, ma durante l'allenamento della nazionale. Molti dicono: beh, Conte ci ha sfasciato un giocatore, è uno che fa lavorare tanto la squadra, eccetera eccetera. Dunque c'è una rabbia anche da parte della proprietà. Carmen Verona, vai, Carmen. Ecco, sarà Carmen di Verona. Dunque, se sentire quest'anno, io lo ascolto, però mi rendo conto che una sera sì e l'altra pure, lei parla dei gay. Ma io mi domando, dico, a chi interessano questi gay? Ma perché c'è tutto questa morbosità per i gay? Scusi, ma lei ha letto qualche notizia o no? Ma facciano quello che vogliono, vogliono vivere insieme, vivono insieme, sì, vogliono quello che vogliono, li odiamo, o se lo prendano. Ma i gay li lasci un po' stare, perché francamente, non so, ma la gente a un certo punto si nervosisce anche. I gay sono sono gay, va bene, sono, ci sono anche gay, ci siano anche gay. Beh, ma scusi, non tutte le sere, li lasci anche un po' perdere. Ma chi... Io non li mando nel paradiso, nel cara Carmen, cara sono gay, sono due che vogliono vivere in coppia, uomini e donne, Carmen, sono la vita che vogliono e non ci interessa niente. E credo che alla maggior parte degli italiani non interessi niente. Carmen, ecco, adesso, questo, lasci, questo lo lasci decidere. Perché fa un piacere. Va bene, questo lo lasci decidere agli italiani. Ci sono fatti di cronaca, avvenimenti, accadimenti che ci spingono a parlare continuamente di Froci. E che cos'è? È che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Ci sarà l'obbligo di Gay Pride. Gay Pride obbligatorio per tutti. Già vedo Parenzo sul camion, che sculetta. Ogni tanto Gaspari c'ha questi picchi di, no, di ironia. Sì, quelli... sì, meglio quando fa le battute che quando fa politica, però bene, sì, infatti, sono d'accordo. Adesso devi mettere il carico da 90, meglio ma quando sto... fa politica, dai, no, su, ha fatto una battuta. Lui può che stai su un carro, perché ti vergogneresti stare su un carro del Gay Pride, no? Beh, non è il mio ambiente, diciamo. Ah, non è il tuo ambiente, no, non è il tuo ambiente. Non andresti al Gay Pride. Io una volta sono andato al Gay Pride e sono stato anni... sotto i carri tranquillamente, anche senza problemi. Sopra sei stato forse. No, sono andato a uno dei primi Gay Pride a Milano, sì, da inviato, da giornalista. Mi ha divertito anche, ma non è il mio ambiente, però. Non è il tuo ambiente. Io sono a favore del Gay Pride. No, preferisco, come sai, buon stare anno, rivendica in un il diritto al baffanculo nei confronti dei Rom. Senti. Ci sono i diritti del fanciullo qua, andate a vedere cosa fanno con i loro figli. Allora, se c'è il diritto al fanciullo, c'è anche il diritto in questa sede autorevole per me di dire il diritto al fanculo di tutti quelli che pensano che non esista il problema. Il problema esiste e non facciamo gli ipocriti. E non possiamo vedere delle cose come quelle che succedono tutti i giorni in Italia, dove furti, usando bambini, avendo macchine super belle e non lavorando mai, ci devono spiegare dove vanno a prendere tutti questi soldi. Ribadisco, gran parte di loro sono la feccia della società italiana. C'è nel Parlamento italiano il deputato ex socialista, ora nel gruppo GAL, Forza Italia, quello che è, eccetera, Lucio Barani, se la prende con il presidente del Senato Grasso, dicendo che i suoi genitori dovevano dare due ceffoni, un po' per educarlo, Prima di fare delle terapie mostruose, andate a fare l'anamnesi, andate a fare l'esame obiettivo, accertatevi. E in quest'aula il primo che recita Calamandrei gli do quattro ceffoni, perché non avete, siete indegni di cercarlo. Siete indegni. Senatore Barani, la invito a un linguaggio consono a quest'aula. Signor Presidente, i ceffoni li può dare al di fuori di quest'aula. I ceffoni sono rivolti. Anche se sono metaforici, penso. I ceffoni sono, penso. Io credo anche i suoi genitori che gli davano dei ceffoni, e forse se gliene davano di più l'avrebbero educato meglio. Grazie. Prego. E invece il marchese Fulvio Abbate vuole fondare un movimento che abolisce il lavoro. Io sogno, da ex comunista, un movimento che sostenga l'abolizione del lavoro. Definitivo. Del lavoro. Ah. Che lo abolisca proprio. Meraviglioso scazzo tra Landini e Chicco Testa, oggi a L'aria che tira. E non lo sapeva che c'erano le contribuzioni da 1 gennaio? No, io ero rimasto che siccome l'hanno approvato il 7 di marzo, no, che no, partiva, l'hanno approvato da gennaio, che le aziende stanno assumendo, Dio, Landini, come stanno, fai a non saperlo, cazzo? Ma non diciamo cavolate, la legge, fino a quando non c'era la legge, non avevano gli sgravi. Come no? È dal primo di gennaio che ce li hanno. Santo Dio, non era approvata, l'hanno votata a fine ma febbraio. Non è vero, no? Non è vero, e non è che uno questo, gli dava Landini dei soldi. parte che Chicco Testa ha sdoganato definitivamente la parola cazzo, e comunque era chiaro che Landini non sapeva una parte del Jobs Act, cioè uno dei principali sindacalisti italiani che si occupa ogni giorno di lavoro eccetera eccetera, non sapeva cosa contiene il Jobs Act, cioè gli sgravi per le imprese. Questa è la sostanza. Dai, Stefano da Firenze, vai Stefano. Buonasera Luciano. Dimmi. Parenzo, vorrei solo dire circa l'uscita infelice di Grillo su sì. Renzi, che la cosa preoccupante non è il delirio di Grillo, che lui sì che se ne intende purtroppo circa piloti che causano la morte, ma il problema sono quella banda di lobotomizzati e narcotizzati, sono costretti a difendere queste cazzate. Allora, è una roba impressionante se si immagina che uno possa avere la libertà di lucrare così vergognosamente su una tragedia e una banda di persone cioè lei dice sono più scandalosi i deputati e i senatori che non dicono una parola, cioè ma per esempio Di Battista eccetera, che devono per forza omaggiare il capo anche su una cazzata così evidente. Ma è evidente che nelle parole di Grillo ci sia lo sciacallaggio politico, ma che si debba difendere un'uscita così infelice, che l'avesse detta anche Papa Francesco, una roba così non può stare. Papa può Francesco trovare. Adesso questo non credo. No, è un'esagerazione. Ma una cosa così no, non ma può Stefano trovare. Ha ragione, tant'è che sui giornali, su radio, ora in questo modo satirico è un discorso. Ma non si può discutere sull'analogia. Cioè io davvero. Va bene, grazie, ho capito benissimo. Non si ribellano i deputati, ma si è ribellato il mezzo web, però, cioè alcuni suoi elettori. Sì, quello questa sicuro. È la differenza. Mirko da Rimini, vai Mirko. Pronto? Buonasera, un attimo solo. Stavo mangiando. Sì, faccia che mangiavi, comodo, tanto... Che mangiavi, Mirko? Mangiavo dei tos che mia moglie stasera fa la notte, la devo portare a lavorare. Io non ho capito che e fa niente, la notte, in che senso? Che... Scusa, Mirko, adesso, Mirko, quindi... che lavoro fa tua moglie? Fa l'infermiera. Ah, fa l'infermiera, dunque la porti a lavorare, che c'entra? Perché devi mangiare adesso? Non ho capito. Perché devo mangiare presto che devo portarla via dopo. E mangiano insieme, beh, si vogliono bene, si amano, bello questo. Ma che mangiate? I tost, scusa, fate la cena normale. Sì, facciamo i tost stasera. I tost? Ma che te ne frega? Ma che sei morto di fame, i tost? Ma che te ne frega lei? Ma scusa, Mirko, ma mangia... Ma che Mirko? Te ne frega? Te cosa mangio io? Ma mangia una pasta, una carne. Ma fai la valanga di cazzi tuoi. Ma una pasta, una carne. Ma cosa rompi le balle a chi mangia a casa? Aspetta, scusa Mirko, ma veramente mangi dei toast? E mangiavo dei toast, sì, sono anche dieta, quindi fa bene. No, ma i toast veramente fanno ingrassare perché c'è il pane, ma comunque se proprio vuoi andare a vedere. Ma è una roba da morti di fame, il toast la sera. Va bene, dai, andiamo avanti, devi parlare di me? Vai Mirko, vai. Bravo, vai. Ok, a posto, allora. Mamma mia, che siete per malosi. Su quello che hai detto di Grillo, Dimmi. Su quello che hai detto di Grillo. Grillo è uno sciacallo, giusto? Bah, ho detto che un'operazione un po' da sciacalli, sì. Un'operazione da sciacalli. Allora Berlusconi quando è andato all'Aquila. Ma perché ci sono i morti? Quando è andato all'Aquila con i morti caldi? È arrivato. Quando è andato all'Aquila con i morti caldi ha fatto lo sborone. Che ha fatto lo sborone? Era qua, ti costruisco là, faccio la casa c'entra? Qua, faccio la casa là, ha spostato. Ma che c'entra? Ma sono due cose diverse. Ha spostato, fammi finire di parlare. Ha spostato quella manifestazione del G8 dalla Sardegna qua. Sì. Spendendo 100 milioni in più. Vabbè, non ha fatto lo sciacallo? Ma sono due cose diverse. Può darsi che abbia fatto lo sciacallo anche lui, che abbia speculato. Perché non hai mai detto una parola? Scusa, Mirko, devi stare calmo, però. Tranquillo. Sono calmissimo. Calmo, non... E soprattutto. Che mi hai dato il morto di fame. Vabbè, una battuta. E che sei? E che sei tu per malosso? Ma stai tranquillo. Ma stai tranquillo. Stai calmo. Ma non mi sembra. Guarda che poi accompagni tua moglie. Voglio fare l'incidente stradale se no, non sei tranquillo. No, non ti preoccupare. Sei nervoso, no, stai non calmo. Non sono nervoso per niente. Allora, guarda, ci sono i politici in generale fanno spesso operazioni di e sciacallaggio Grillo politico. Non è un politico perché non è in Parlamento. No, non Grillo è un politico, è il capo di un movimento Grillo fa politica nel suo movimento, non fa politica né in Parlamento. Vabbè, allora adesso siamo arrivati lui fa il comico e del No, ti sbagli, è il capo no. di è il capo politico del Movimento 5 Stelle, dunque non dire cazzate. Come no? No, è lui il capo politico. Casaleggio, ci sono i meetup, lui parla per cazzi suoi, lui può dire quello che vuole. Ma che c'entra? Certo che può dire quello che vuole, nessuno glielo impedisce. E noi siamo padroni di dire che ha detto una minchiata, punto. Ha detto una minchiata, sono d'accordo anch'io che ha detto una minchiata. E allora basta. Ma non mi pare il caso di metterlo in croce perché ha detto una minchiata lui, ma quando sento minchiata tutti i giorni alla televisione. Ma lo devi dire tu chi inventiamo in croce oppure no? Lo devi decidere tu chi mettiamo. Ma mettiamo... no, decidilo tu chi metti in croce. Noi mettiamo in croce un sacco di gente, per fortuna. Decidilo tu. Ma scusa, ma tu che hai il potere di mettere in croce la gente. È vero, è vero che in ospedale di notte si fa tanto sesso? No, non è vero. Non è vero. Si lavora. Si lavora. Anche si tu... lavora di brutto poi. Anche tu lavori in ospedale? Cosa che tu non hai mai fatto in vita tua, coglioncello. Beh, io lavoro e... Tu non hai mai fatto un cazzo in vita tua. Questo... prima delle 7 della mattina. Si è irritato. Non ti sei mai alzato. No, è bello, si è irritato per gli... perché gli ho detto morto di fame perché mangio dei toast. Adesso ti offendo io, scusa, sei... non posso offendere. Ti sei offendi, massima. Offendo, ma a me mi offendono ogni giorno, non c'è problema. Figurati, sono abituato. Tu sei meno abituato però, vedi. Sei permaloso. Io abituato, non abituato, a me chi mi offende per primo poi si prende le sue. Ma io ho detto morto di fame nel senso che potevi secondo me ma secondo me dovresti cenare in maniera più degna, capito? Io ceno come cazzo mi pare. Ma perché io non ci fai esattamente come cazzo perché mi non pare? Ti fai toast, cosa perché c'è non ti fai una pizza nel con toast? La che sì. Ci metti nei toast che c'è? Nel toast abbiamo messo provola affumicata, ci abbiamo messo tonno, ci abbiamo messo prosciutto cotto. Non è che è un toast quello? È che è un toast questo? 4-5 toast. Ah, 4-5 toast, questa è la dieta. È un club sandwich. E questa è la dieta! E questa sarebbe la dieta! È la mia dieta! E questa la sarebbe la dieta! Ma questo ingrassi come dieta un matto! Dieta personalizzata! Senti, amico fatti. Mio, ammetti non è vero che ammetti la realtà, attimo, Grillo ha detto momento. Una minchiata con questa roba qua, ammettila tu, che allora, sei un grillino, che sei un grillino, ammettilo. C'è Renzi, che in TV ne dice aiosa di minchiata. È bellissimo, noi ogni su giorno. Twitter ne posta aiosa. Ma che c'entra minchiata. Il paragone? Quello ha fatto un paragone con i morti, con ma i morti. I morti, Berlusconi non è andato sui morti caldi. No, ma dai, ma sono due cose diverse. Non è andato sui morti caldi, non è andato a dare l'ordine di dire alla signora per farsi propaganda. Mamma mia, è andato o no? Ciao. È andato perché era presidente del consiglio all'Aquila, ha detto un sacco di cazzate all'Aquila, non c'è dubbio, come Grillo ha detto oggi una gran minchiata con i morti ancora da recuperare, facendo un paragone assurdo tra Renzi e il pilota della Germanwings, chiaro? Ormai è tutto degradato ormai. Ancora a casa, è con noi Giampiero Mughini. Ciao Giampiero, come stai? Eccoci carissimo. Eccoci molto qui. Bene, spero tu bene. Abbia letto durante questa lunga giornata, caro Giampiero, alle 8:10 abbia letto quello che oggi ha scritto il signor Beppe Grillo nel suo blog. Se vuoi te lo riassumo. Me ne ha accennato qualcuno, ma io sai, le opere complete di Grillo le trascuro molto. Ma in questo caso questa però è grave. Non trattasi di un'opera completa, ma di una semplice frase. Un frammento dell'opera completa. Esatto, un frammento, sì. Il frammento. Una fratulenza. David, fai un attimo esprimere in piena libertà, se non condizionare Giampiero Mughini su questa considerazione, su un fatto importante, perché è successo, come sai, un grave incidente aereo, no? Con un tizio che è mezzo matto e forse l'ha lasciato la fidanzata, però si è schiantato contro una montagna. È un classico tema sul quale solo il silenzio sarebbe giusto. Perché è una tale tragedia. Silenzio totale. Cioè, un uomo politico, uno che fa politica, può avere cordoglio, può pensare dentro di sé. E basta. Poi non accennare neppure per scherzo. Cioè, può anche come per scherzo a quella morte lì. Esatto. Grillo cosa ha fatto oggi? Ma Grillo non è un uomo normale. Tu dici non è normale? No. Allora, a che cosa ha fatto? Ha fatto un fotomontaggio sul suo sito con un aereo, con la fusoliera di un aereo con scritto Germanwings, in cui c'è, ho scritto proprio Germanwings, cioè ha messo proprio, la cosa che mi colpisce è il disegno a me più che le frasi. Cioè, qualcuno ha pensato per lui a fare un aereo, la fusoliera di un aereo con scritto Germanwings. Poi c'è Renzi che esce fuori con la testa, che ride, eccetera. Pazzesco. Un uomo solo al comando, Renzi come Lubitz, ci farà schiantare. 150 morti ancora da recuperare. Una cialtronata degna del suo autore, però una cialtronata fra le maggiori, ormai Grillo supera se stesso, va a superare se stesso, siccome è un po' caduto di moda, sì, è caduto di moda, deve farsi notare con delle cialtronate di livello superiore. Tu dici solamente una cialtronata, eh? Vabbè, cioè... insomma, ragazzi. No! Ed è, come altro la vuoi dire, una, quando intendo cialtronate intendo un misto di volgarità, demenza intellettuale, sì, mancanza di rispetto per quelle vittime, stupidità nei confronti della situazione politica italiana, un complesso gigantesco. Sì, beh, devo dire la verità che non riesco oggi a dire a Mughini che esagera su Grillo. Ogni tanto magari non la penso come lui, perché io sono un po' più, no, come dire, garibaldino, anche un po'... Ciascuno ha il diritto di pensare quello che vuole. Esatto, però su questa cosa devo dire francamente che uno se la poteva risparmiare, perché no, è vero che la metafora di Schettino, caro Giampiero, è diventata di uso comune, no? È diventato di uso comune dire, che ne so... Beh, tu io sei... infatti non amo neppure quella metafora. Cioè, tu sei come Schettino perché hai portato la tua, che ne so, la tua azienda... No. No, io non amo quella metafora perché non dà bene l'idea. È inutile paragonare a delle tragedie le cose della politica, le cose reali, complesse della politica, sì, della storia, della sociologia, paragonarle a una tragedia, perché in questo modo il lettore viene avvicinato, l'ascoltatore, sì, viene avvicinato a una boiata. Però, la tragedia di Schettino, anche quella, 32 o 33 morti, non, sì, mi ricordo, va lasciata da parte in un discorso politico che dovrebbe avere un altro linguaggio, un'altra sintassi, altri punti di riferimento. E oggi il principale quotidiano della destra italiana, che si chiama Il Giornale, ha titolato Schettinen, perché attaccando in questo modo i tedeschi, no? Attaccando in questo modo i tedeschi, sì, che ne, sì, pensi? Assolutamente, come se i tedeschi rispondessero di un individuo in quello stato, come se la Germania intera rispondesse, come ha risposto invece di Adolf Hitler, di un povero disgraziato e assassino di massa. Beh, ma secondo, oddio mio. Secondo te Grillo perché ha fatto questa roba qui? Proprio perché non ha gusto, perché non ha intelligenza, perché non ha creatività vera, perché naturalmente devi essere anche creativo nella comunicazione, cioè, perché ormai non c'è la odierna, ma lui non ha questa creatività, lui è avvoltolato nella volgarità. E secondo te quelli che gli danno ragione tra i suoi, che dicono no, beh, però Di Battista per esempio, no, sono peggio di lui? Beh, essere peggio di Grillo è difficile. Di Battista non ha il curriculum di Grillo, che ha fatto ridere mezza Italia, non so se pagato in nero o in bianco, sì, e Di Battista non ha mai fatto ridere, fa solo piangere con la sua mediocrità intellettuale. Proprio Trashan, Giampiero, su questa cosa, cioè non lasci spazio nemmeno. Io i grillini li ho detestati dal primo minuto, li ho detestati prima, durante e dopo. E dopo, detto questo, giusto, io nella mia vita non ho mai incontrato un grillino. Come non è mai? Mi sarebbe piaciuto moltissimo. Ma un elettore grillino? Sì, ho conosciuto della gente, quasi tutte, hai amici che aveva votato per Grillo, tra cui un'avvocatessa molto simpatica che mi ha detto che aveva votato per Grillo perché aveva litigato col fidanzato. Hai capito? Quindi, oltre a mandare al vaffa il fidanzato, ha mandato al vaffa il paese. No, no, no, insomma, lei era in uno stato di tensione, forse, sì, di dolore, eccetera, sì, per questa cosa. Allora ha reagito votando per Grillo. Ma un, ecco, caro la... amico grillino non lo potresti avere? Cioè, sarebbe, no, incompatibile? No, io non lo potrei avere, no, questo no, no. Perdonami. Cioè, non potresti essere amico di un grillo, sarebbe altro, no, che un mio amico non possa avere le sue idee, sì, difformi dalle mie. Però non ce l'ho, io non, nessuno di quelli che conosco è grillino. Conosco della gente che ha votato, ne conosco uno, cioè, ma che quelli proprio convinti uno, cioè, molto noto, posso anche dirlo, il mio grande amico Ernesto Galli della Loggia, che ha votato, no, per Grillo, e questa è stata per me una sorpresa, una coltellata, quasi Ernesto, una coltellata, ecco, quasi. Ma questo non me lo doveva una fare. Una coltellata. Fermo lì. Mamma mia, che orrori. Andiamo negli spogliatoi e ci mettiamo nudi, e quando lo vedo, ammazza, o a Luciano. C'ha una punta grossa, ed è, come dicevi tu, 20 centimetri. Barzotto, attenzione, Barzotto! Le grandi confessioni alla Zanzara, caro Mughini, è giorno da noi. ha detto di essere superdotato. Vabbè, intorno a... Ma lui voleva dire proprio in senso della lunghezza in centimetri o voleva dire in un senso più generale, no, filosofico? No, ti posso assicurare che non abbiamo toccato nulla di quello che ha detto. Parlava dell'instrumentum regni. Si parlava dell'instrumentum. Parlava di centimetri. Parlava di centimetri. Dell'instrumentum regni. Sostiene Mughini. Però 20 centimetri, perché siccome il porno è una cosa seria, quando si parla di porno bisognerebbe conoscere bene le cose. Ma tu le conosci bene il porno? Il grande attore americano. Io sì. Potrei fare delle lezioni universitarie su porno. Ma veramente? Ma allora non mi conosci bene. No, ma so che tu hai una grande collezione, per esempio. No, non una grande collezione. No, io ho una collezione di erotica. Naturalmente tra l'erotica e il porno non c'è nessun muro di Berlino che li separi. Sì. Perché li separi, e il porno è una cosa molto più seria di quanto dicano alcuni. Io ho visto che in occasione sì. di quella cosa che non è porno, è solo serie C, eccetera, l'Isola dei Famosi, sì. Un brillante giornalista italiano ha parlato come se fosse una malattia della masturbazione, cioè di una delle cose che Dio ci ha dato e di cui gli siamo grati. Ma di questo c'è la masturbazione, dici, la masturbazione, dici tu, no? Vabbè, certo. Cioè, dobbiamo essere grati a Dio. Dio ci ha dato e Dio gliene dobbiamo essere grati. Ma questo è talmente evidente, solo un imbecille, un bigotto, un ipocrita o un malato sessuale potrebbero non dire questo. Assolutamente. Io sono mi ricordo questa cosa, che Giampiero Mughini è un grandissimo collezionista di film hard, di film... No. Vedi le cose come no. Io ho sempre detto, non sono un grandissimo collezionista, pensa che avrò una ventina di cassette, non di più. Però qual era il punto, e forse questo che ti fa... Dunque, io queste 20 cassette le tenevo nella stanza della vecchia casa dove veniva la gente. Quella stanza non c'era un solo libro e c'erano invece queste 20, forse 25 cassette. Sì. E in 30 anni che io ho abitato quella casa, mai una volta uno degli ospiti ha detto: senti, ma di quelle 25 cassette qual è la migliore o la più interessante o la più attizzante? Mai uno per dirti l'ipocrisia della gente. Ma okay, tu ancora te le vedi quelle cassette, no? Io quelle cassette ormai no, però non ho nessuna difficoltà a dire che ogni tanto scorrazzo per siti porno dove ci sono cose che mi vanno benissimo, mi piacciono, eccetera. Ma certo, e vorrei che tu capissi che non stai parlando con un grossolano, no. Stai parlando con uno molto raffinato. No, ma no, ma io so benissimo, Giampiero. No, figurati, certo. E dopodiché, come dire, collezione di film tipo Fotografando Patrizia. Tipo... No, hard, no. Ma che fotografa? Senti, no, di qualcosa, hard, Parenzo, scusa. Perché è veramente imbarazzante. No, non posso parlare con Parenzo. A Parenzo devo fare una lezione, naturalmente a pagamento, la prossima volta che viene ospite a casa mia. A cena. Ma perché, qual è il tuo attore hard preferito? Beh, Rocco è stato il top, è stato bravissimo. Rocco come attore, come regista hard, assolutamente. Beh, bravissimo, ma uno se sapesse queste cose, ha fatto una volta un film hard in cui lui lavorava tra virgolette, ma anche senza virgolette, in una sorta di contrappunto con un concerto di Elio e le storie tese, che era un capolavoro. E a quanto mi hanno detto le compagne dei cantanti del gruppo di Elio e le storie tese, gli ha fatto casino per questa collaborazione artistica. Capito? Artistica. Ma ne parli come fosse Marcello Mastroianni, però. Ma scusami, abbi pazienza. Ma ho detto che Rocco Siffredi e Marcello Mastroianni. No, però ne parli questo. Con un entusiasmo. Ma perché Davide è così? Beh, no, che vuoi fare? Perché non si migliora? Perché il porno per lui è il diavolo, no, capito? No, sì. Ma è il diavolo. Per te io sono più per i film erotici, ad esempio. Ma vedi, Davide, la distinzione tra film film erotico, vorrei ricordarti che uno dei più grandi pittori del Novecento, che è il tedesco Egon Schiele, il quale naturalmente attorno al sesso ha scorrazzato molto, lo processarono, siamo nel 1915 credo, o 14, non cambia nulla, lo processarono e durante il processo lacerarono alcuni dei suoi disegni, disegni che oggi stanno nella storia dell'arte del Novecento alla vetta. Egon Schiele appariva come un pornografo. Nabokov con Lolita venne respinto da circa 25 editori e venne pubblicato da un editore francese pubblicava della pornografia. Questa è la storia culturale. Sì, ma io faccio la differenza culturale. Tra erotismo se e uno sa queste cose, se non le sa di che cosa sta parlando. No, ma per me è diverso. Un film erotico è diverso da un film col signor Siffredi, ad esempio. Però ma allora, ma c'è un regista che si chiama naturalmente L'ultimo tango, come tu dici, è diverso da un film. Appunto. Da un film. Voglio ricordarti che la copia dell'Ultimo tango, per decreto di un giudice, venne bruciata. Vergogna. Quindi scusa, per il giudice l'Ultimo tango era pornografia. Hai capito? Ma è una stupidaggine. Quindi cambia infatti l'ottica. No, 50 scusa, sfumature di grigio, eccetera, eccetera. È una puttanata. Certo. Ma se l'avessero fatto 30 anni fa li arrestavano. Scusami, ci sono dei registi. Ma io sono d'accordo con te. Parenzo, ci sono dei registi come Marc Dorcel, come il mitico Salieri, che tu a non me conosci. Piacciono più i film. Salieri non è così mitico come dici tu. No, però il compenso ce ne sono dei molto interessanti. A me piace il primo Tinto Brass, ad esempio. Vabbè, straordinario. No, a me non piace affatto, perché l'erotismo di Tinto Brass ai miei occhi è un erotismo, è un guardonismo provinciale di uno cui piacciono i grandi fondoschiena. Questo per me non è erotismo. Scusami, che cosa vedi sui siti porno tu? Sui siti porno vado a seguire naturalmente delle piccanti attricette, delle piccanti attricette. Te ne segnalo uno superba. Dimmi. È un'americanina che vuole fare la giornalista e che probabilmente ha più qualità per farlo che non tante di quelle che lo fanno. Si chiama Tori Black. La prossima puntata, e la prossima conversazione la faremo su di lei. Assolutamente, guarda, Tori, la signorina Tori Black. Tori Black. Tori Black. Beh, siamo veramente al top. Ma hai capito. Ma oggi sei incazzato un po', sei incazzato. Vederla, no, però aspetta, possiamo completare. Che generi ti piacciono quando vai a fare un po' di questi viaggi? Beh, ma che ragionamento è? Come se uno dicesse che genere ti piacciono nell'ambito della narrativa. Vabbè, non hai una tua preferenza, che ne so. È intrigante la situazione, la costruzione del racconto, diciamo, come posso dire, l'accentuazione erotica delle situazioni, ma certo che è intrigante. Ma non c'è racconto. Ma scusami, ma perdonami, perché se no non ci intendiamo. Ma Parenzo dice che non c'è racconto. Ma tu pensi che l'intera industria del porno sia fondata su di me? Ma no, o pensi che invece il 70% delle persone, ivi comprese le coppie, ivi comprese le donne, usufruiscono e si appagano? Assolutamente. È fondamentale. Siamo d'accordo. È fondamentale per il, come dire, perché la società. Però non c'è un gran. Adesso, però, scusate, va bene, sono d'accordo con voi. Non sono mica banchettoni. Però. Ma tu, con la tua fidanzata, con la tua fidanzata, nei film frequenti si porno o no? A casa mia, interessa a casa mia. Ma no, dillo. Quello è appartiene alla mia intimità di casa. Ma che intimità? Ma cosa sei diventato? Un magistrato? Per piacere, fai tacere Davide, fammi una domanda seria. Chiedo. Allora, la domanda seria è questa. Ecco, falla tu. Allora, le mie amiche, le amiche che sono venute nel tempo a casa mia, io naturalmente per la mia attitudine all'insegnamento, alla docenza, seppure gratuita, ho mostrato loro tutte entusiaste. Entusiaste. Quando dico entusiaste mi sto tenendo basso. Capito, Davide? Cioè, ci sono delle cose che sono artistiche. Ci sono artistiche, tra virgolette, perché poi. Tutto è arte, tutto non è. Non importa che siano artistiche, l'importante è che funzionano nel linguaggio che si sono scelti. Ma poi scusa, tu che ce fai con questi film porno? Perché non penso che ti masturbi davanti a un film porno. Credo, Stai parlando con me? Sì, credo. Tu pensi che io nella mia vita non lo abbia mai fatto? Sì, adesso. Pensi a me come un degenere? No, adesso. Ah. Adesso dico, adesso. No, adesso in effetti non li guardo così, eccetera. Ma naturalmente per completare la ricchezza del mio patrimonio conoscitivo. Capito, Parenzo? No, cioè... no, capito, ma sono d'accordissimo io e anche ammirato da Mugiampino. È veramente il l'unica uno. Roba che sommessamente, per carità, Tori con Black umiltà, mi ha chiesto, Tori contestavo. Black, signorina Tori Black. Ma, cioè, Tori Black, scritto Black. È scritto sì, Black, Black, sì, no, perché Parenzo pensa di essere lui normale, noi siamo anormali, no, noi siamo noi che usufruiamo del porno davanti al computer e ci mettiamo lì avidi di conoscenza, avidi di conoscenza, no, perché io è lo stesso atteggiamento, sono avido di conoscenza. Ma questo dillo da di noi, vuoi far passare noi come anormale e tu come normale, no, vabbè, ma masturbatevi davanti al computer, va benissimo, ma fate, beh, non c'è cosa più sana, non c'è cosa più sana, non entro nel merito. L'unica cosa che contestavo sommessamente, con grande, come dire, sì, no? Proprio pacatamente, è il fatto che mi risulta difficile trovare un plot nei film del signor Siffredi. C'è un plot che. Ma come non dire, dire no? Sciocchezze, Davide, ma non dire sciocchezze. Tra l'altro, tu che mi si pare di capire che non ne abbia mai un visto uno. Secondo me, e non ne ha visto uno. La dice lunga sulle lacune della tua formazione. Detto questo, ti assicuro che quello che tu chiami plot, che è naturalmente cosa diversa dal plot di un romanzo che mira al premio appunto. Strega, sì. Sì. Anche se oggi al premio Strega sono candidabili tutti, è vero? Allora ti dicevo, il plot c'è come? Ma che plot? Si trova in una porno, stanza e non è che è un plot di metafisica, no. Che poi anche però. Il sesso è metafisica. Assolutamente, dai, non no, diciamo, intendevo dire che quando tu guardi un'ora di un Dorsel, di un Salieri, di un di altri registi. Ma lascia stare Salieri, che non è un fissato. Perché non è un grande, è un grandissimo Salieri. Ma non è un grande. È stata la formazione di tutti noi. Mario, io non lo conosco bene, onestamente. Io di Salieri conosco, come dire, l'antagonista di Mozart, però per carità. Ma invece ti dico una cosa per deluderli. Una volta sono andato a un sul set di un film che stava girando Rocco, comunque non so se lo stesse girando lui o fosse lui il produttore, non mi ricordo. Comunque sono andato sul set e purtroppo era di una noia mortale. Cioè, perché il set era un filmaccio di serie C, capisci? Era di una noia mortale. Senti, ma tu invece hai acceso un busto a Lucianone assolto oppure a Lucianone Moggi oppure come tu sai, Luciano non è stato assolto. Sì, lo so, prescritto. E la cosa è talmente pasticciata, sia la sentenza, sia l'esito, eccetera, eccetera. Dunque esiste un'associazione a delinquere, d'accordo, benissimo. Questa associazione a delinquere è stata riconosciuta dal procuratore generale della Cassazione e non è stata contestata dalla Corte. Sì. Di un'associazione a delinquere, per essere operativa nel mondo del calcio, sul romanzo dello Scudetto, deve essere una cosa abbastanza articolata. Questa associazione a delinquere in tutto e per tutto annovererebbe un solo arbitro, quello che non ha rinunciato alla prescrizione, il quale è giudicato colpevole per due partite in quella Juventus. No, assurdo. Quindi assurdo. La roba è di una comicità, ma io penso di una comicità, ma è nata tragicomica e finisce tragicomica. Allora, ho una foto della signorina Tori Black, che io preferisco a Luciano Moggi, pur col grande rispetto per Luciano, per carità. Ho la foto della signorina Tori Black. Beh, caro Parenzo, devo dire la verità. Ma poi perdonami, la devi vedere in azione, perché lei è palesemente una ragazza intelligente che ha scelto questo campo e che sa starci. Capito, ma infatti Anita, due volte di seguito, e non era mai accaduto, questo lo dico per illuminazione di David Parenzo, quando hanno dato i premi Oscar del porno, due volte di seguito ha condotto lei. Anche l'Oscar del sicuro che a paragonare la conduzione sua e con quella di Alessia Marcuzzi non sono sicuro che arriverebbe secondo. No, anzi, sono sicuro che arriverebbe. È ok? No, è ok. Sono sicuro che arriverebbe prima, assolutamente. Ma ultima cosa del porno, però sentite, ragazzi, adesso non è che mi state costruendo un altare della vergogna, No. Per me, a me lo dici, altare della vergogna. No, lo Anita Blair, a Parenzo, no, no, per Parenzo ormai sei praticamente nell'altare della, della deprivazione. No, però, ma tutto altro, ma io voglio dire una cosa, un'ultimissima cosa, poi ti lasciamo perché ti abbiamo tenuto pure troppo. No, per te dico, ma Marchisio, quanto sei incazzato per questa vicenda di Marchisio? Cos'è successo? Ma non sai nulla, vabbè. Cos'è successo? Oggi che hai fatto? Ti sei glissato? Oggi no, oggi ho letto incessantemente un libro, Le memorie di Bunin su Chekhov. Beh, è alternato con Tony Black. Alternato no, con no, Tony Black oggi non è stata nella mia lista. No, Marchisio, 6-7 mesi fuori, Juventini incazzati come belve perché non avranno Marchisio per la Champions League, ovviamente anche per il campionato. No, questo non me lo, non mi puoi dire a fine, cioè noi abbiamo parlato tutto il tempo di quelle inezie laddove c'era questa tragedia. Una tragedia infinita. Ma è successo? È in nazionale con i Juventini incazzati con Conte, che poi si è molto piccato, Elkan pure arrabbiato con la nazionale, i risarcimenti, le cose, ginocchio KO, fuori 6-7 mesi, una tragedia infinita. Ma questo in allenamento? In allenamento, sì, in allenamento. Ma ragazzi, infatti il discorso è molto semplice. Quanto sei colpito da questa cosa adesso? Beh, sono colpito immensamente, mi devo sedere anzi, devo sedere perché io ritengo Marchisio una gemma dal valore, in primo luogo perché è italiano, in secondo luogo perché è nato nella cantera juventina, in terzo luogo perché si è migliorato anno dopo anno, in quarto luogo perché è un onnivalente nella zona cruciale del campo. 6-7 mesi fuori, mettiti a sedere con calma dopo. Mi sono messo a sedere ed è una notizia, e mi sorprendo che abbiamo discusso di quelle inezie avendo questa tragedia in commedia. Siamo partiti da Grillo e finiamo con Marchisio, ma non c'è più religione. Perché così tanto lavoro in nazionale, dice Alain Elkann, sull'infortunio di Marchisio facendo incazzare? Beh, ma sai, è noto che le squadre che danno i giocatori alla nazionale corrono un rischio. Non c'è dubbio. Vabbè, mettiti calmo. Però che fai? Abolisci la nazionale? No, mettiti calmo e medita su questa cosa perché la notizia ferale, una notizia ferale per te, ma anche per un sacco di gente. Feralissima. Ma a che ora è successo? Di pomeriggio, è pomeriggio. Ma io scusa, ho guardato Dago Spia ancora verso le 5:30, non c'era nulla. Non è che ti dà tutte le notizie, proprio magari. Beh, io da Dago Spia, con Dago Spia ho il quadro della situazione. Sì, della situazione, ma non della situazione della nazionale di calcio, magari. Ma scusa, Marchisio è una cosa molto più importante che non le dichiarazioni della Santanchè. Non ma stiamo scherzando. Non c'è dubbio su questo. Allora? Non c'è il minimo dubbio, però vedo che per esempio sulla prima pagina di Dago Spia non c'è Marchisio, ma una cosa che si chiama la mammellata. Sì, ho visto. Viaggio nel mondo. Ma quello io non sono d'accordo con Dago. Dago lo fa perché naturalmente mira un pubblico ampio. Sì. Io con queste sue aperture non sono d'accordo, anche se so benissimo perché lo fa. Meglio Marchisio. Perché la mammellata è un tema che non ha alcun senso. Vabbè. Non ha proprio alcun senso. Ti devo lasciare. Alcun senso. Oppure è veramente per dei maniaci sessuali. Vabbè, adesso, cioè solo dei maniaci sessuali possono essere intrigati dalla misura 5. Però hai appena parlato di Tori Black e adesso la mamma. Ma Tori Black non ha misura 5. Tori Black è una delle poche attrici porno. Vedi, mi stuzzichi che non è artefatta. Non ragazzi. È artefatta, ragazzi, siamo al top. Vabbè, ciao Giampiero, a presto. Ciao. Traffico. Radio 24 è diventata radio porno, ma i suoi responsabili facci sentire queste cazzate qui alla sera. Era una bella trasmissione, lei l'ha rovinata. Grande ritardo, traffico, la mammellata, tra poco. Traffico, il traffico è il problema. Lui è Mario, un idraulico, io lo accompagno sempre da ogni cliente. Lui si occupa delle riparazioni e io dei pagamenti. Carta di credito, bancomat, con me ognuno paga come preferisce. Così eliminiamo le perdite d'acqua e le perdite di tempo. Chi sono? Il POS sicuro di Vodafone e Setefi. Metti la tecnologia Vodafone al servizio della tua attività. Se hai la partita IVA, scegli la soluzione per potenziare il tuo lavoro e diventare un ready business. Vai su readybusiness.vodafone.it. Messaggio pubblicitario, concessione POS soggetta all'approvazione di Setefi. Fogli informativi su monetaonline.it. Quando devi fare tante cose hai bisogno di più energia? Su con Sustemion Plus e Menarini in farmacia. Vi presenta Strade in diretta. Sera, il traffico intenso come ogni sera a quest'ora in uscita dalle grandi città, in particolare a Milano vi segnaliamo code a causa di un incidente lungo il tratto urbano della 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Sulla 26 dei trafori i lavori causano un chilometro di coda tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada verso Genova-Volti. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. La Zanzara. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Andiamo con Luisa da Foggia. Vai Luisa, vai, vai. Oh, finale. Vai, dimmi cara, dimmi, dimmi. Allora, prima di tutto, Cruciani, per te che cos'è il futuro? Che cos'è il futuro? Parla, parla. Il pudore, bah, è un pudore, quello che uno si sente come, come limite, no? Come limite nell'esternazione delle proprie idee, nell'esternazione della propria. Bravo, come limite. Come ma limite. Tu questo limite ce l'hai? Beh, no. Diciamo che è un po'. I paletti sono stati, come dire, sono stati scardinati. Ancora restano dei paletti, altrimenti mi spoglierei qui davanti alla webcam. Che c'entra? Cioè, sarei. Quindi sono questi i tuoi pudori. Ma non lo so qual è il pudore. Andiamo davanti alla webcam. No, no, allora Luisa, stai calma. Facciamo un ragionamento. Perché mi vuoi chiedere questo? Quali sono i tuoi limiti? Qual è il tuo pudore? Non ho niente, ho ascoltato la telefonata con. Con chi? Con il signore precedente. Signor Mughini, signor Giampiero Mughini, sì. Che parlava della sua passione per i film hard, per i film porno. Vabbè, okay, ma è venuto. Volevo sapere. È venuto così casualmente però, questa roba qua, eh? Non è che. Beh, tutte le sere casualmente. Ma no, tutte le sere. Tutte le sere ogni tanto escono fuori. Scusi, ma il sesso fa parte della vita di tutti noi, fa parte della vita, certo, di tutti i giorni. Certo, ognuno di noi lo, certo, vive quotidianamente, chi più, chi meno. Hai detto bene, noi ne facciamo un argomento di discussione. Certo, qualche, bravo, volta può essere eccessivo, qualche volta invece può essere si resta nei limiti, qualche volta esageriamo, qualche volta ne parliamo troppo. Siamo esseri umani, siamo esseri perfettibili, cara signora. Non siamo esseri perfetti e non vogliamo essere perfetti. E l'intimità che cos'è? Ma l'intimità, perché? Ma ho capito, ma allora il punto. Vabbè, scusami, ma tu fai bene a farmi queste domande. Io ti rispondo in maniera molto semplice, cara Luisa. In questa trasmissione spesso si chiedono alle persone delle notizie sulla loro vita privata, su che cosa fanno, qualche volta anche sotto le lenzuola, quando queste persone sono disponibili a farlo, eccetera, eccetera, eccetera. È normale che a un certo punto non si può essere così ipocriti da nascondere le cose che appartengono alla mia vita personale o alla vita personale di Parenzo, che è un po' più restio, ma ogni tanto molla qualcosa, perché è normale che sia così. Per cui non si può essere, non si può chiedere agli altri di svelare le parti segrete, le parti intime, e poi restare lì fuori dalla mischia. Ogni tanto bisogna in qualche modo svelarsi, bisogna raccontarsi. Molto semplice la cosa. Ma chi non si svela non è ipocrita. Io non ho detto questo, ma no. Il senso, Luisa, ho detto che Parenzo è ipocrita? Ho detto che chi non lo fa è un coglione, o chi non lo fa è contraddittorio, che... ipocrita? Assolutamente no, è una scelta. È vero che in questa trasmissione. Ma già hai detto che non è ipocrita. Chi? Comunque non è questo l'argomento. Vabbè, Luisa, che di che volevi parlare? Parlare? Dimmi, Luisa da Foggia. Dico solo una cosa: mi piacerebbe tanto il comune. Senso del pudore comune. Vabbè, il comune senso del pudore. Pudore il comune non esiste, ognuno ha il senso del pudore che ha. Vabbè, comunque è un argomento allora, molto complesso. Io volevo intervenire, sì, su quello che ha detto padre Livio. Padre Livio, signor Livio Fanzaga, il quale ha detto che dietro i matrimoni gay, dietro i matrimoni gay, è un sacerdote, vabbè, non è un signore. Cioè, vabbè, Don ok, io lo posso chiamare Livio, signore, oppure devo chiamare per forza Don Livio. Io lo chiamo signor Fanzaga. Sarà consentito o no? Sì. Allora va bene. Allora volevo dirti questo. Lui dice che dietro i matrimoni gay c'è il demone. Allora sì. Io ti faccio un'altra domanda. Dimmi, cara. Perché esiste il bene? Sì, ma adesso non è che possiamo fare l'interrogatorio a Cruciani, già siamo andati piuttosto avanti su questa cosa. Il bene e il male, no, non ci credo al bene e al male, no, no, come concetti astratti. Non credi al bene, no, e allora non posso dirti nient'altro, perché... Ma che c'entra il bene? Ci sono delle cose che sono oggettivamente un male, ci sono delle cose che sono bene, che ti posso dire? Quello che ha fatto il pilota della Germanwings è un male, il bene... Io ti posso dire che... credo nel bene, e se credo nel male io credo alla parte opposta, che è il demonio. Sì, per vabbè. Me il male è il, vabbè, demonio. Tu credi nel demonio, io non ci credo nel demonio. Sì. Non ci credo, allora, nel io demonio. Invece ti posso non dire ci credo nel demonio, sia. Chiaro? Tu non ci credi, sai perché? Perché? Tu, guarda, Cruciani, io potrei essere tua madre, perché su giornali ho letto la tua età, ho 22 anni più di te. Vabbè, allora? Quindi lo potrei essere. Però, guarda, te lo dico non con disprezzo, ma tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Beh, purtroppo hai un'arma, amici, grandissima, miei, che è quella della radio. Sono uno strumento nelle mani del demonio. Tan, tan, allora, tan, senti, tan. Tu sei a favore dei matrimoni gay. Su. Tu sei nato da un uomo e una donna. Beh, su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. E allora la natura è un uomo e una donna. Siamo pieni di natura. Siamo pieni di frosci. Bambini. Siamo per pieni. Fare un bambino ci vuole un uomo e una donna. Siamo pieni di frosci. Siamo pieni di frosci. Il mondo sta diventando sempre più froscio e io sono contento. Il demonio si sta imbossessando del mondo e non sono testimone di e Dio. E io sono contento io del fatto che il mondo diventa sempre più froscio, che la frociaggine esce fuori, allora, che finalmente chi è froscio e ama l'altro sesso può avere soddisfazione senza essere bastonato, frustato, discriminato. Guarda, io ho l'autorizzazione papale. Siamo i froci, sì. Froci degli esseri umani. Beh. Io mi sentirei offesa. Ma perché? Qual guarda, è il punto? Io ho l'autorizzazione. Ho come frocio mi sentirei offesa. Ho l'autorizzazione papale. Ti ho detto. No, non del Papa, del demonio, di Lucifero. Senti, posso dire una cosa a Parenzo? Sì, ecco una cosa a Parenzo. Eccomi. Quindi, Parenzo, quindi. Tu sei di religione ebraica, vero? Sì, sì, cara, sì. È corretto. Sì. Ma sei un ebreo non praticante? Ma saranno cazzi suoi? No, sono, no, è una domanda che si può rispondere. Sì, sono tradizionalista, cioè rispetto, faccio vabbè, il digiuno dello Yom Kippur. Vabbè, faccio, sei di ebrei. Faccio. È molto osservato, è diventato abbastanza osservante. Molto tutt'altro. La costituzione della religione. Giusto? Vabbè, dai, capito, forza, andiamo a comandamenti. Non ho capito, scusa. Nei 10 tu non rispetti i 10 comandamenti. Ma i 10 sì, fino ai 10 ci arrivo. Beh, ma qual è il punto, Luisa? Vai. Ci sta. Non commettere atti impuri, allora... non desiderare la donna scusi, da altri. Ma signora Luisa, io sono stato con donne sposate, dunque ho desiderato donne ad altri, e atti impuri non lo so, ma se uno lo vuole prendere, se uno lo vuole prendere nel di dietro, ha tutto il diritto di prenderlo nel di dietro. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire. A che cosa? Perché scusa? Mi fai tanta pena. Tanta pena, Per la rabbia. Scusi, lei ha mai commesso atti impuri? Ha mai commesso atti impuri, ma signora Luisa? Con mio marito, sì. Con suo marito, ma atti proprio impuri. No. Ah, no, non penso, sto benissimo, sono una donna felice, ho 4 figli. Vabbè, allora. Ma cosa voglio di più? Non ho capito. E allora? E la felicità in determinate occasioni, quando i miei figli si sono laureati, quando sono diventata nonna. E la felicità è quegli attimi là. Io adoro invece, adoro l'amore tra... Non ho l'azio che hai tu, la rabbia che esprimi dietro quei microfoni. Ma che rabbia, io ti abbraccio fortissimo, ti do un bacio in fronte e se vuoi anche anch'io, in bocca. E se vuoi anche in bocca, anche in bocca anche no. Davide. In bocca ti posso dare, in bocca, posso dare un bacio no, in bocca. Anch'io, mi farebbe schifo dal demonio. Ciao. Brava, che Dio ti benedica. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. Segreteria telefonica 02-4652-4010, ve la ripeto 02-4652-4010. Voglio dare un messaggio ai miei amici. Alle 6:30 non mi chiamate, c'è la zanzara, voglio ascoltare la zanzara, c'è il Cruciani. Porci, siete dei cani! Crucia, hai scassato lo cazzo di questa adozione gay. Soffro, c'è figli che ne può avere. Hai capito, no? Oh, hai scassato lo cazzo. Ecco, io volevo ringraziarvi perché aver saputo delle dimensioni del glande di Moggi ha rallegrato la mia serata. E quindi consiglio Parenzo, noto onanista, di smetterla di avere l'invidia delle protuberanze dell'estremità di Moggi e di farsi una ragione. Moggi ce l'ha grande. Oh, ma fai sempre il fighetto in TV con sta camicia bianca, bello preciso. E poi dici che non ti lavi per 2 giorni. Come cazzo fai a non farti una doccia per 2 giorni? È assurdo. Capanna col tuo occhio cratico, coglione d'un saccente, sei solo un cucurbita, hai tutta la mia dedignazione. La natura è governata dalla fisica, se la fisica permette che un cazzo entri in un culo, vuol dire che è permesso alla natura, uno che resuscita dopo tre giorni è contro natura. Non fidatevi di chi parla per Dio. Parenzo è uno stronzo, ma quando imita Capanna siamo al top, cazzo. E sì che siamo proprio al top. Franco da Parma, vai Franco. Beh, stupendo. Vi ripeto 0246 52 40 10. Potete dire quello che volete. Censura. Se tu avessi questa segretina telefonica che ti piace tanto. No, ma dimmi, alcuni giorni mi piace, altri volte no. 0246 52 40 10. Sì, adarro, come dice Buchini. Sì. È come se tu tu a casa hai un gabinetto, immagino, no? Ma no, ma dai, su. No, un gabinetto ce l'hai? No, chiedo, ce l'hai il gabinetto a casa? E allora? Ecco, è come se si guastasse il gabinetto e tu, siccome ti piace l'odore, dici per una settimana lascio il gabinetto rotto e continuo a fare i miei bisogni nonostante il gabinetto sia rotto. È uguale, Parma, Franco uguale. Da Parma, vai. Ti piace ciao, Lorenzo. Ciao, caro. Questa camionista frocio. Chi? Di Dio, signora. Chi? Di prima. Frocio. Chi? Di Dio ancora. Ascoltami, io sono all'area di parcheggio di Fontanellato che aspetto Parenzo. Aspetto David con le piume di struzzo. Ma perché? Ma non verrà. Non verrà. Non verrà perché non vuole fare questo. Non credo, vuole fare questo meraviglioso giro, non vuole fare questo meraviglioso giro. No, anche questa perché inchiesta, sì, però un po' di buon gusto ce l'ho. No, ma non ho capito, no, veramente tu sei un camionista gay? Ma ci siamo già sentiti, e te che me l'hai già detto l'altra volta che ti prendo per il culo. Ma non è che Franco, non è che secondo me non è vero. Mi ricordo non di tutto. Non ti prendo per il culo. Secondo me non è una stupidità. Ma quanti siete camionisti gay in giro per l'Italia, secondo te? Tanti, e ti dirò. C'è tante persone che sì. Poi sono quelle che come si chiama la bottarmina, sì. Tante persone che sputtanano i gay, io li vedo in azione. Hai capito? Cioè, in che senso li vedi in azione? Scusa, non ho capito, spiegami bene. Tante persone che si comportano come Taormina. Ah, fra l'altro il signor Taormina, sì. Scusami un attimo, che si domandava se il nipote, sai, un vero sì, maschio, si è... un vero maschio, esatto. E mi ricorda il signor Taormina, sì. Al dottor Taormina, che il padre di Vladimir Surya, che è tra l'altro un mio collega, perché è un camionista, sì. Ha festeggiato per una settimana, ha offerto da bere a tutto il paese perché era nato il figlio maschio. All'inizio, sì. Poi invece è finita quando, come è finita. Quando è nato? Certo. Quindi vabbè. Probabilmente il signor Taormina si troverà il nipotino che gli porta il compagno, se riuscirà, perché ormai è anziano, poveretto, comunque. Beh, non è detto. Non augurare queste disgrazie a Taormina. Ciao vita, Franco, ciao. È con noi Lori del Santo. Lori, ciao. Come stai, cara? Come stai? Bene. Come va? Piacere. Come la va? Va come... Decidiamo di indirizzare il nostro futuro. E tu come lo indirizzi il tuo futuro? Spiegami. Ma io cerco sempre di trovare delle ragioni per non scomparire. Cioè, devi stare sempre sulla breccia, diciamo, devi fare sempre un po' notizia, devi lavorare sempre. Tu hai un momento di riposo in cui non fai nulla, c'è o no? No, non c'è. Penso che veramente quando sembro immobile, in realtà sto pensando a soluzioni nuove. Quindi, veramente solo quando dormo in catalessi. Allora lì ho gli incubi, ma però insomma lì non lavoro, ma se no io sono una 24 su 24 in energia pura che spandi nel mio. Perché tu scegli sempre fidanzati molto molto giovani, adesso con chi stai che non mi ricordo più? Il solito. Ma da quanto tempo? Da quanto? Un anno e sei mesi. Quanti anni di differenza un anno avete, e se, quanti anni di differenza avete, signor Del Santo? Ma incalcolabile, direi. Però come sai, incalcolabile? Almeno... Spiegami, incalcolabile. Perché molta, però il fatto positivo è che lui, insomma, mi sta vicino perché mi segue nel mio lavoro e quindi mi aiuta. Ma che sai, spread gli uomini c'è? Di una certa età vogliono sì. Avere le geishe. Io ho bisogno di qualcuno che mi aiuti, che stia vicino. Tu hai bisogno di un geisho? Accenda il computer, che mi risolva i problemi dei virus. Ma hai bisogno di un idraulico, elettricista chiama, ha bisogno di una specie di valletto praticamente, più che di un uomo. Sì, ci sveo. Una persona che ti vuole bene sta vicino a te tutto il giorno, insomma, non che abbia impegni e se ne va. Sì, dunque una persona, cioè, un disoccupato, uno che fa cazzo, uno che mantieni tu, uno che mantieni tu, uno che ha voglia di imparare quello che fai tu, che tu sei una persona attraente perché hai da comunicare un'esperienza. Ma chi lo mantiene? Tu lo mantieni. Beh, tu, perché forse. Se non devi fare niente tutto il giorno lo mantieni, o è ricco tu di famiglia. Ma certo, ma il problema è che però dà il suo contributo con la sua conoscenza, per esempio su internet, il computer, tutte queste cose. Ah, qua serve al computer. Beh, adesso questa è una teoria abbastanza particolare, però servirà anche ma a lei. Quanti anni di differenza avete? 40 anni, 30 mente. anni, quant'è la differenza? Non lo so, è parecchio. Beh, però dillo, ormai non si sa, ormai. Sinceramente, anche perché ripeto, il punto è tu devi sceglierti la persona che ti sta vicino, idonea a quello che tu desideri. Però Lori, poi uno che ti sia spesso vicino deve essere uno giovane, uno di una certa età c'ha le sue cose da fare. Sì, e soprattutto uno di una certa età, diciamo che a letto funziona poco magari, no? Uno no, questo non è per me un problema, però veramente quelli di una certa età hanno chiuso gli occhi al futuro e invece ho bisogno di espandere continuamente, perché non e vabbè, ognuno, sai. Senti, ho letto che c'è stata una ricerca recente sulle percentuali di donne che fingono l'orgasmo. Volevo capire se anche tu ogni tanto fingi, perché è un problema molto serio questo qua, diciamo la verità. Ma, sai, mentre Renzi quando parla di riforma della RAI, noi parliamo delle donne che fingono l'orgasmo, ma questo è abbastanza normale, mi sembra, no? Ti piace, sì, Renzi come uomo? Sì, non mi piace il fatto che da solo cerchi di fare qualche legge. Ah, addirittura. Questo è fondamentale secondo me, perché il problema è che quando tanti comandano non si fa neanche una legge. A sto punto, cioè un dittatore, me, dici, un dittatore, no, una specie, esatto, serve quello. Non, no. Sì, secondo me sì, a questo punto, guarda, anche che siano sbagliate le leggi, ma che siano nuove. Cioè qui ci trasciniamo, no, leggi. Ti piace o non ti piace fa sto Renzi? Ti piace, sì, che sì, fa? Mi piace la sua energia, il fatto che non sia statico, il fatto che non abbia, insomma, sia giovane, e non possiamo tornare a questi qua di 80 anni che ma ti fa, ti piace che faccia un po' il dittatorello, come si dice? Adoro, oppure dovrebbe mettere un pugno di ferro ancora più grosso. Beh, o con me grosso, o fuori, via, si deve fare ste leggi, bisogna cambiare sta roba, questa larva di questo stato ancora, sì, ancorato a robe tramontate. Beh, il signor dal punto di vista sessuale ti attrae, signor Renzi, o no? Penso che non abbia tempo di fare quella roba lì. Tu arriva dici, a letto pure secondo me, sconvolto, ha bisogno di sostegni, punteggi. Pure secondo me, anch'io. In che senso sostegni, punteggi? Scusa, Per tirar su. Ah, per tirar su ha bisogno. Peso. Per tirar su ha bisogno di qualche pilota. Salvini forse. Ma io credo che la sua moglie lo comprenda, perché un uomo di potere è quello che deve seguire, non può dare il massimo. Tu lo consideri una specie di toy boy della Repubblica, il signor Renzi? Sì, lui ha dedicato questi anni nel cercare di cambiare qualcosa, e io il toy boy, il tuo toy boy, il toy boy della Repubblica, come tu hai un fidanzato toy boy, noi abbiamo il nostro toy boy che è Renzi. Esatto, ma insomma è da onorare, per questo è da rispettare. Per carità, sì, assolutamente. Senti, ma invece il signor Salvini, che insomma piace a molta gente dal punto di vista politico, a te invece proprio fisicamente ti fa qualche impressione? Cioè fisicamente te, no, lo faresti lui, o no? Lui è comunque, io l'ho visto più di una volta in persona, è un bell'uomo, anche lui c'è quei 2-3 chiletti che girano in più, dici, ma però comunque anche lui è giovane, energetico, anche lui ha da dare, insomma, perlomeno una grande personalità, bisogna riconoscerglielo. Capito, Parenzo? Sì, no, ascolto, capisco. Non no, mi piace che dice troppo le parolacce, però capisco che la gente vuole a volte semplificare il tutto, ma mi sembra un po' troppo semplificato il linguaggio. Un po' troppo, sì. Però capisco che a certe persone piaccia un linguaggio del genere. Tipo. Un linguaggio, sì, del genere. Io voglio capire se tu fingi ogni tanto quando sei a letto oppure no. Sicuramente nella tua lunga vita, come sì, dire, c'è stato qualche caso, anche perché quelli che non arrivano mai, diciamocelo. Cioè non basta, vieni e piantiamo la luce. Non può essere infinito il discorso. Ma che ci sono uomini che non vengono mai? Sì, non so per quale motivo. È troppe pilloline, secondo me, troppe. Ma troppe... non lo so, non le pilloline pare che non facciano venire con grande ritardo. No, questi ritardi infiniti. Beh, ci sono uomini che durano tanti. Cioè, che, tu per la lunghezza estenuante. Ah, preferisci uno che viene più volte. Beh, balla a trovare, però, amica mia, balla a trovare. Cioè, magari qui di solito, c'è una botte e poi uno è morto. Diciamola tutta. No, guarda, no, ti assicuro. Ti assicuro che invece il tuo toy boy è uno da ripetizione. Ma no, ma in generale tutte le persone sane che non fanno abusi di cose strane fanno le cose a ripetizione, cioè sono in grado di farne 2-3 a sera, forse anche sì, di... sì, assolutamente. Ma io non faccio abuso da niente, 2-3 a sera non ce la faccio. Ma perché anziano, tu devi troppo ormai il cervello, troppa. Ma capito, ma tu non vuoi un uomo, tu vuoi una specie di robot ai tuoi servigi che no, si dedichi. No, ci deve essere la libertà di avere più tempo. Le persone dedite a costruire una fortuna in denaro non hanno tempo da dedicare alla compagna. Beh, le grandi verità di Lori del Santo, che richiamerò presto. Ti abbraccio fortissimo. Ciao, okay, ciao. E con queste parole, buon weekend, in cui basta. Immagina un uomo totalmente al suo servizio, che non lavori e che abbia tempo, non dico da perdere, ma da dedicare ad una donna, vi lasciamo e ci sentiamo lunedì, se Dio vuole, alle 18:30. Se non c'è successo qualcosa durante il weekend, tocchiamoci tutti, ciao. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai tanta pena, per la rabbia, per quest'astio. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando lo dica, a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Radio 24. La passione si sente.